Gastronauta di Davide Paolini. Ciao a tutti. Ebbene, oggi parleremo di vino, ma ne parleremo in maniera molto particolare, di un aspetto appunto del mondo del vino. E l'interrogativo che io lancio è questo: chi conferisce plusvalore al vino? La griff dell'enologo, oppure viene chiamato anche winemaker in maniera molto internazionale ormai, o il marchio dell'azienda e del produttore? Perché questo tema? Perché ritengo sia importante perché sicuramente ci sono molte volte, quando si va anche al ristorante oppure si va in enoteca e si chiede un vino, oppure si chiede magari un consiglio, e dicono: prendi questo vino perché è fatto da questo enologo oppure da questo winemaker, da questo personaggio. Devo dire che in realtà, come scrive sul sito Gastronauta Maurizio Gili, questo avveniva, oggi avviene sempre meno perché ci sono sempre meno soldi, però è vero che è avvenuto tanto, per tanto tempo, e ancora si ripete questo argomento. Allora vogliamo vedere se è ancora così, se è stato così, se il mio interrogativo è veritiero, oppure magari se mi sono inventato, diciamo, questa cosa, questo particolare. Allora, numero verde 800 24 00 24, 349 238 6666. Allora cominciamo a parlarne con Angelo Peretti. Angelo Peretti è un giornalista, ha un suo magazine online, ma non solo, è anche direttore comunicazione del Consorzio di tutela del Bardolino e del vino di Custoza, e poi uno molto preciso sui suoi appunti e sui suoi interventi. Angelo, buongiorno. Buongiorno Davide, buongiorno agli ascoltatori. Tu cosa ne pensi di questo interrogativo? Ma io sono d'accordo con te e con Maurizio Gili. Sì, in passato non c'è dubbio che si beveva il Merlot di Cottarella, giusto per fare nome e cognome, insomma, no? Cioè, il winemaker, l'enologo, era importante, così come era importante la griff. Ma perché uso l'imperfetto era? Ma perché sono rimasto sconcertato anch'io dai risultati di una indagine che ho fatto condurre in settembre, quindi freschissima, da parte di una primaria società di ricerca sulla riconoscibilità dei vini di 4 denominazioni di origine dell'Italia settentrionale. Beh, il massimo del livello di riconoscibilità dei vini da parte di 3.000 consumatori intervistati e di 150 ristoratori era legato alle campagne pubblicitarie in atto su quei vini, cioè i vini più riconoscibili erano quelli delle aziende che stavano facendo pubblicità di quel vino. Al secondo posto c'era l'identificazione dell'azienda con la zona di produzione. Dico dei nomi: il Barbaresco si identifica con la cantina dei produttori del Barbaresco, il Soave con la cantina di Soave, il Custoza con la cantina di Custoza. Cioè, quando un'azienda incorpora il nome della denominazione, oggi è vista come un elemento di forte identificazione. Terzo posto, grande identificazione con la storia di una denominazione. Più l'azienda è radicata all'interno di una denominazione di origine, più è riconoscibile. Se questa è la nuova scala di valori, le convinzioni tue e mie, perché io la pensavo esattamente come te, beh, vanno a farsi benedire, perché sono cambiate completamente appunto le scale di valore da parte dei consumatori. Beh, io credo che questo sia un passo in avanti molto importante, perché quindi si sceglierà il vino, non si sceglieranno più così appunto vini che vengono ammantati di leggende, di fantasia o di personaggi. Sì, guarda, la cosa veramente incredibile, il quarto elemento che emergeva da questa indagine è che non esiste una sostanziale differenza quantitativa in termini di riconoscibilità, fra il vino dell'azienda griffata e il vino dell'azienda, diciamo, più territoriale. Sostanzialmente la capacità di identificazione di quei vini da parte dei consumatori era identica. Io credo tuttavia che in alcune fasce di consumo, soprattutto quelle più elitarie, la firma, la griff, abbia ancora un grande valore. Ma ritengo più la griff aziendale, cioè, che so, il produttore nobile, che so, Antinori per esempio, che ha fatto comunque la storia del vino italiano, costituisca un plus valore il nome, la griff di questa azienda. Ma devo dire comunque che, diciamo, da questa indagine emergono veramente dei dati molto interessanti. Però c'è un però: che se è vero che la riconoscibilità e, diciamo, la richiesta avviene per la pubblicità, siamo messi un po' maluccio, perché il settore vino non investe molto in pubblicità, sono pochissimi coloro che investono, e credo che il leader dell'investimento sia appunto il Tavernello, con tutto il rispetto che posso vedere per la produzione del Tavernello, per carità. Quindi infatti vedo un sms che mi dice: perché i professori di eminenti università si prestano a pubblicità, lui dice, di vinacci come il Tavernello? Bene, lo dice il radioascoltatore che ha scritto, però credo che mi sembra che sia già quella pubblicità non ci sia più in video, quindi magari può darsi che l'Università di Bologna abbia preso dei provvedimenti, non lo so. Sentiamo Giuseppe dalla provincia di Taranto, un radioascoltatore. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a lei, grazie per avermi fatto intervenire. Niente, io sono un produttore di uve da vino e vino da uve biologiche e penso che la GRIF deve essere quella aziendale. Non possiamo oggi mascherare un vino dietro solo la firma di un winemaker o di un enologo, che sicuramente sono fondamentali. Anche noi in azienda abbiamo un riferimento molto importante, però penso che sia il territorio, quindi i riconoscimenti all'azienda e quello che gira intorno all'azienda, il paesaggio o l'attività agricola biologica o la struttura, la masseria qua in Puglia. Quindi penso che la cosa importante a cui bisogna educare il consumatore del vino è proprio alla territorialità, quindi al posto, perché altrimenti il winemaker è winemaker in Puglia, è winemaker in Lombardia, lo potrà essere in Porto. E non sempre il nome equivale a riconoscere quel prodotto come prodotto di quella terra. Molto spesso i prodotti fatti dallo stesso winemaker rischiano di confondersi, quindi penso che la cosa più importante sia educare a far bere il vino e far capire la storia che c'è dietro quel vino. Bene, sì, devo dire che per fare questo ci vuole il racconto, ci vuole del tempo, bisognerebbe che lo facessero anche coloro che servono il vino, e questo diventa molto, ma molto complicato. Comunque, bene, si stanno facendo dei passi in avanti, sento che quindi il valore e anche il plus valore del vino viene dato da elementi importanti che sono il territorio, sono le denominazioni. Per carità, stiamo raggiungendo una maturità importante anche da parte dei consumatori. Bene, passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi, grazie ad Angelo Peretti. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di plusvalore al vino. GRIF dell'enologo, marchio d'azienda del produttore, che incidono sia sul consumo e anche sul prezzo, direi. Sentiamo Mirko da Ferrara. Buongiorno Mirko. Sì, buongiorno Paolini. Telefono come winemaker di professione. Con l'amico Angelo Peretti a Ferrara abbiamo organizzato il dicembre scorso un'iniziativa che andava nella direzione che Angelo poi sottolineava, vale a dire la connotazione dei vini con il territorio. Oggi secondo me una connotazione di tal senso è fondamentale, legata alla cucina territoriale. Quello che il winemaker oggi può fare, a mio avviso, è quello di cercare nel bicchiere di rispettare il più possibile quella che è la natura del vitigno che sta vinificando. Forse nel recente passato abbiamo avuto, mi conceda il termine, una produzione industriale di qualità, connotata con una tecnica enologica che tendeva molto a uniformare anche le sfaccettature che ogni singolo vitigno, e in Italia di autoctoni ne abbiamo tanti, può dare. Quindi ecco, secondo me la connotazione che si può dare è quella di un'enologia molto più rispettosa della materia prima, senza magari lasciare nel bicchiere quella firma che molti enologi fino a questo momento hanno dato. Bene, grazie Mirko, le dico solo che ci sono diversi sms di radioascoltatori che dicono: per favore eliminate il vocabolo winemaker. Bene, ora lo chiediamo su questo punto, ma ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Chiediamo a Roberto Cipresso. Roberto, buongiorno. Buongiorno Davide. Ma tu sei un winemaker o sei un enologo? Io sono un winemaker. Bene, bene, bene. Allora, come winemaker ti chiedo, ma sei d'accordo che fino a qualche tempo fa il nome vostro, di uno di voi, di uno dei grandi, faceva, diciamo, portava plus valore al vino nella vendita e anche nella richiesta, e aggiungo anche nelle votazioni delle guide? Ma Certo, guarda, beh, tu sai bene cosa è successo in questi ultimi 20-25 anni nel mondo del vino, no? 20 anni fa si bevevano vini abbastanza cattivi, con tutto rispetto per il terroir e per territori fantastici che abbiamo in Italia e nel mondo, però si bevevano vini appena sufficienti. C'è stata una fase straordinaria dei winemakers, che è stata quella di aiutare, accompagnare il produttore alla visione, cioè a poter vedere al di là del proprio vigneto, del proprio campo, del proprio personale gusto. Molti produttori non assaggiano nemmeno i vini del vicino di casa, hanno bisogno di un tutor, di qualcuno che li accompagni per mano. Poi certo, è vero che nel tempo si è un po' anche esagerato, ma perché è accelerato il mercato, sono accelerate le domande, sono accelerate le guide, sono accelerati i giornalisti, si è accelerata la comunicazione e si è creata anche moltissima confusione in questo mondo. E certo, il winemaker è fondamentale nella fase di start-up, poi dall'assistenza a un produttore può diventare consulente, può diventare anche soltanto supervisore. Stiamo parlando di una figura completa, cioè non più solamente colui che fa il vino, ma colui che conduce l'azienda in un progetto. Certo, proprio così, cioè un produttore di vino straordinario che annusa la terra, che guarda, che osserva il cambiamento della natura, che segue passo passo il processo per fare un grande vino, deve dedicarsi a questo e deve avere però qualcuno che con il quale confrontarsi, che porta anche la voce di cosa accade nel mondo. Cioè l'Argentina non sarebbe arrivata dove è arrivata a produrre grandi vini nel mondo se non ci fosse stato Michel Rolland, che è un mio grande amico, non ci fossero stati anche altri tecnici italiani che sono andati e hanno creato come dire, lo scalone importante per passare da una piattaforma di vini sufficienti a vini straordinari. Poi da lì certo non ci si accontenta più e si cerca di capire qual è la differenza tra un vigneto che viene a 1500 metri di altitudine piuttosto che a 900, ed è fantastico. E poi ci sono tecnici che io chiamo terroiristi, e io mi identifico molto in questo termine, che sono come dire attenti più all'espressione di un territorio che di una varietà o del gusto di un certo tipo di mercato. Però senza winemaker quel famoso scalone su cui oggi tutti parlano di omologazione, ma che ha fatto il grande successo del vino nel mondo, senza winemaker francamente mi sento di dire che saremo ancora molto indietro, ecco, non ci saremmo arrivati. Rimani con noi, sentiamo Francesco da Treviso. Buongiorno Francesco. Buongiorno signor Davide, complimenti, è troppo forte lei. Va bene, andiamo avanti, il dunque. Il dunque è che io abito in provincia di Treviso, sotto le pendici del Montello, dove ci sono diverse cantine piccole che fanno dei prodotti veramente buoni. E purtroppo anche sui bar del mio, che ci saranno 30-40 bar a Montebelluna in provincia di Treviso, ci sono questi baristi che fanno fatica a vendere il vino del territorio. Allora tirano dei vini come siciliani, pugliesi, a 3 euro, 3,50 euro il bicchiere. Non capisco perché non possono valorizzare il prodotto, come aveva detto precedentemente l'ascoltatore. Non riesco a capirlo, perché ci sarebbe una buona qualità prodotto del prezzo, invece devi dargli magari 3 euro di un bicchiere di vino siciliano. Non facciamo del campanilismo, insomma, perché anche in Veneto si possono trovare vini anche a più basso prezzo, quindi insomma diciamo che vini a basso prezzo ci sono dappertutto e le merci girano, non si può pretendere di essere autarchici anche sul vino. Grazie comunque, sentiamo ora Alex da Milano. Buongiorno Alex. Salve Davide, come tu sai ho un osservatorio un po' sulla ristorazione e soprattutto sulla distribuzione milanese del vino. Devo dire che anch'io ho notato che il marchio e il winemaker contano meno rispetto alla mediazione del rivenditore che può essere ristoratore o enoteca, perché il rapporto fiduciario con questo tipo di figure aumenta e anche diventa un modo per accettare quello che adesso l'ascoltatore diceva, anche una idea di prezzo magari un pochino più alta, anche l'idea di un prodotto nuovo da provare. Questo mi sembra un pochino la mediazione di oggi. Grazie Alex. Ora abbiamo con noi un enotecario che è stato anche un bravissimo sommelier, ha vinto anche molte cose a livello nazionale, Nicola Zanini di Bergamo. Buongiorno Nicola. Buongiorno. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Allora ti chiedo questo, nella tua passata esperienza e in questa attuale, c'è qualcuno che si presenta e dice voglio il vino di quell'enologo, oppure voi dite come posso dire, per far conoscere i nuovi vini, questo vino è stato firmato da quest'enologo? Beh, indubbiamente sì, anche perché insomma la cultura che si è diffusa in questi ultimi anni, voglio dire, è notevole. I media hanno fatto un grandissimo lavoro sotto questo punto di vista, quindi i grandi enologi adesso sono sulla bocca di tutti. Non dimentichiamoci il nostro lavoro, perché comunque il rapporto di fiducia è comunque tra noi e il cliente, quindi nel momento in cui mi chiede un giudizio su un vino griffato, diciamo, la nostra opinione alla fine è quella che realmente è ascoltata dal cliente. Io però penso che un grande lavoro sia fatto anche dal marketing aziendale, nel senso che i francesi in questo ci insegnano. Noi non abbiamo da invidiare a livello qualitativo nulla ai cugini d'Oltralpe, però alla fine che cos'è che fa la differenza? Loro sono molto bravi a vendere. E questo, secondo me, li ha portati ad essere presenti in ogni angolo del mondo. Quindi, al di là del nostro lavoro, che è molto importante, al di là del lavoro del winemaker, che è fondamentale, perché comunque si tratta sempre di vendere prodotti che devono essere di altissimo livello e devono essere perfetti, secondo me un plus valore da non sottovalutare è comunque la comunicazione e il marketing aziendale, insomma. Bene, grazie a Nicola, mille. Grazie. Se torniamo a Roberto Cipresso. Roberto, tu hai aziende, ti curi aziende in Argentina, in tanti altri paesi, in Cile mi sembra, in altri paesi, e volevo chiederti il discorso appunto dell'enologo, tra l'altro devo dire che c'è una battaglia dei radioascoltatori sugli SMS contro il termine winemaker pazzesco, però devo dire che uno che lavora in giro per il mondo nel biglietto da visita non può mettere enologo, dovrà mettere per forza winemaker, quindi chiusa questa parentesi. Ti volevo chiedere l'importanza nella vendita e appunto in quei paesi, c'è l'importanza appunto di aggiungere un vino che è stato, diciamo, il progetto è stato fatto da, non dal marchio aziendale ma anche da un consulente? Ma guarda, nella prima fase probabilmente sì, no? Perché io faccio sempre una domanda ai miei clienti: perché un cuoco indiano di New York dovrebbe comprare il tuo vino, no? Deve avere certamente un territorio affascinante, deve avere certamente un know-how garantito, e l'alchimia di queste due cose poi nel tempo ti possono anche fare andare avanti veramente da solo, assolutamente da solo. Quindi c'è una fase in cui dei territori che non sono ancora stati profondamente collaudati, non hanno dato ripetibilità di un certo standard qualitativo, che hanno bisogno di avere una garanzia, un di più, che dica guarda, insomma, assaggiamo, perché se ci ha messo le mani, ritorno a dire Michel Roland, per non parlare d'Italia, vuol dire che probabilmente c'è della materia, ci sono delle cose interessanti. Un professionista così non perde tempo per fare delle cose soltanto buone, e quindi c'è il primo effetto, quello della curiosità, che probabilmente, su cui probabilmente il winemaker ha un grande significato. Poi dopo, certo, non basta più, cioè poi però nasce anche il brand, nasce la riconoscibilità del marchio aziendale, e poi la riconoscibilità, che è straordinaria, se vuoi mettere alla mano leggera, come si dice, si riconosce il territorio, e poi il territorio vince su tutto, e il rapporto con chi ti ha guidato e ti ha messo prima le ruotine sulla bicicletta, ma poi te le ha anche levate, rimane sempre la figura di questo winemaker. Però Davide, posso dire, cioè, winemaker non è un americanismo così divertente, cioè winemaker significa fare il vino, colui che fa il vino. Perché fare l'enologo significa occuparsi dell'aspetto enologico del vino, ma i winemaker sono quelli che stanno molto più in campagna che in cantina, che sono psicologi verso i propri clienti produttori, che sono quelli che vanno ad assaggiare i vini degli altri, sono quelli che non si accontentano di entrare a parlare di fermentazione monolattica, ma entrano sono, diciamo, una sorta di angeli custodi per alcuni produttori, ed è per questo winemaker è molto un ampio raggio. Grazie di questa precisazione, perché appunto, come dicevo, gli SMS imperversano. Sentiamo Carlo dalla provincia di Milano. Grazie Roberto, a presto. Buongiorno Davide, spero che Cipresso sia ancora collegato. Sì, prego, prego. Anche a lui. Io sono un piccolo produttore, ci siamo conosciuti tempo fa, e sono d'accordo con l'inizio della tua trasmissione questo fatto che forse oggi la gente, per fortuna, non compra più perché è fatto dal winemaker o dal grande enologo, e perché sta riconoscendo i territori e le piccole zone. I winemaker, gli enologi sono persone importantissime, come ha detto Roberto Cipresso, ci hanno fatto crescere negli ultimi, io direi, 40 anni, 20 anni forse un po' troppo poco, ma l'importanza è che voi giornalisti, chi scrive sui giornali, sulle riviste, parlino più dei territori, che in Italia ce ne sono tantissimi, che del personaggio, della persona importante, dello psicologo, di queste persone che ci hanno aiutato a fare vino. Beh, secondo me bisogna che anche da parte dei giornalisti ci sia un cambio di modo di approccio ai territori, e non solo perché c'è quel grande personaggio, quel vino deve per forza essere buono. Bene, e devo dire, io non è che voglia fare ora la mia difesa, ma sono da sempre che parlo di territori, quindi credo che, diciamo, che questa svolta c'è già stata negli ultimi anni. Penso, come è stato detto all'inizio e come ho letto questo intervento sul sito Gastronauta, che i tempi siano cambiati, come abbiamo anche sentito. Il Gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di vino, che conferisce plusvalore al vino. È la griff del consulente o il marchio d'azienda del produttore o il territorio? Aggiungo ora che sicuramente è un terzo valore, forse oggi diventato il più importante. Però rivolgo subito questa domanda a un giornalista che non ha peli sulla lingua di solito, Franco Gigliani. Buongiorno Franco. Buongiorno a tutti. Allora, voglio chiederti questo: è finita l'era in cui molti vini si vendevano semplicemente per il nome di chi li aveva così fatti in consulenza? In realtà è finita, ma avendo sentito parlare poco fa Roberto Cipresso, io ero qui pronto a celebrare la fine di questo dominio, di questa dittatura, addirittura direi, del potere dell'enologo, del winemaker nel mondo del vino italiano. Ma invece ci troviamo di fronte, sentendo le sue parole, siamo ancora alla prima repubblica del vino, non alla seconda repubblica, siamo alla prima repubblica, perché Cipresso ci parla ancora di un enologo salvatore della patria, psicologo, angelo custode, quello che deve essere una garanzia. Ma garanzia di che cosa? Garanzia di che cosa? L'unica garanzia per il consumatore che si è stufato di prendere delle fregature comprando i vini firmati da questi signori. E poi non è una garanzia, perché buona parte di questi enologi consulenti che fanno vini per il mondo, basta pagarli profumatamente, come si fa con Michel Roland e i suoi omologhi italiani, ti vanno a fare il vino ovunque, non gliene può fregare di meno del valore del territorio, basta pagarli. Allora, bisogna andare oltre. Oggi il consumatore si è un po' stufato di queste cose, si è un po' stufato e vuole valori reali, perché ripeto, ha già tirato fuori soldi inutilmente, ha già preso fregature, ha già preso delusioni, ha capito benissimo come molti di questi signori siano stati funzionali in questi anni agli interessi di buona parte dei produttori italiani. Cito sempre con reverenza Germano Pellizzoni, che è stato un grande collega, è stato direttore di A Tavola, che parlava addirittura di cupola del vino. Qui siamo ancora all'intreccio di interessi, dove gli enologi, certi enologi consulenti, perché poi ce ne sono di bravissimi che non vogliono fare i protagonisti, non vogliono fare gli angeli custodi di nessuno, hanno degli interessi comuni, gli enologi che proteggono e difendono il loro lavoro, i loro interessi, difendono il loro lavoro che fanno nelle grandi aziende del vino, che fanno in piccole aziende del vino, che ancora oggi nel 2011 si affidano ciecamente a loro, pensando che gli danno chiavi in mano le aziende. Ma oggi deve parlare sempre di più il valore della terra, il territorio, l'unicità del vino. Questi signori per tanti anni ci hanno proposto di vini tutti uguali, perché erano consulenti sì, in ogni parte d'Italia. Il valore del territorio era completamente sparito, e ancora oggi si vengono a presentare come salvatori della patria, come consulenti. E poi anche le griff, Davide, voglio dire, ci sono delle griff che meritano ampio rispetto, ma poi dipende anche dall'atteggiamento che noi giornalisti abbiamo nei confronti delle griff del vino italiano. Ci sono delle griff che hanno una storia importante, hanno una continuità quantitativa, ecco quello che fa il valore del vino. non è il fatto che lo faccia X, Paolini, Zigliani, Cipresso, Chiperesso, ma il valore del vino intrinseco, la continuità qualitativa di un vino, per cui il consumatore sa che quel vino non è l'exploit di un anno, non è un'operazione decisa a tavolino, ma è un vino che ha una storia, ha uno stile, ha una credibilità, ha un prestigio. Franco, ti fermo perché tu sei un fiume in piena, ma ti voglio semplicemente ribadire una cosa, tutto vero, però attenzione, molte aziende erano consce di questo, si sono affidate proprio perché sapevano che avrebbero venduto o sarebbero uscite dall'anonimato, non dimentichiamolo questo. È premiante, perché poi questi signori, oltre a fargli il vino, riuscivano a fare il modo tramite degli ottimi rapporti, e qui diciamo solo ottimi rapporti, non voglio dire altro, riuscivano a farli premiare dalle varie guide, per quello che parlo della cupola, come diceva Pellizzoni. Questi qui facevano i vini in un certo modo perché piacessero alle guide, perché piacessero a certa stampa, e vedi caso il fatto che certi vini fossero fatti dall'enologo XYZ, dal consulente alla page, che era un consulente anche di marketing commerciale, di immagine, questi non si limitavano a fare il vino. Facevano tutt'altro, facevano soprattutto altre cose, e venivano scelti, come succede a volte nel calcio, no? Si cambia squadra, si cambia allenatore, si cambia allenatore per cercare di salvare. Allora si cambiava enologo, si prendeva l'enologo alla page, quello che pensavi, si sapeva che aveva buoni rapporti con la guida X, col giornalista di un certo tipo Y. E questo era il risultato. Ma questa era la prima repubblica del vino. Bene. Dobbiamo proiettarci nel futuro del vino italiano. Bene. E dare ai consumatori valori sicuri. Grazie a Franco Zigliani. Bene, diciamo che di carne sul fuoco ne ha buttata tanta. Allora io voglio chiedere, abbiamo con noi Fabio Giavedoni. Fabio Giavedoni è responsabile della guida Slow Wine dello Slow Food. Buongiorno Fabio. Buongiorno a te e a chi ci ascolta. Hai sentito il fiume in piena di Zigliani, cosa ne pensi? Sì, ho sentito Franco, ma Franco in grandissima parte ha ragione, e siccome non voglio continuare sul suo tono, no? Ma magari faccio un po' l'avvocato del diavolo, no? Se mi consenti. Prego. Cioè, nel senso che ha ragione lui, noi abbiamo visto veramente una prima repubblica dal vivo del vino anni fa, con delle cose anche al limite del ridicolo. Io mi ricordo 6-7 anni fa, qualcosa del genere, in un ristorante di Roma la carta dei vini ordinata per winemaker, no? Non per regioni, non per vini rossi, per vini bianchi, ma le divisioni per pagina erano a seconda del winemaker che faceva i vini, quindi lì era un culto della personalità che neanche nella Russia di Brezhnev, insomma, era altrettanto. Gli va dato atto, se vuoi, però alla categoria generale degli enologi, dei winemaker, dei consulenti, di avere in qualche caso impostato aziende che in passato lavoravano per fare le grandi quantità di vino, magari più spesso sfuse, non avevano la professionalità della bottiglia, eccetera, di averle impostate secondo una modalità più moderne, quindi più portate a fare la qualità, eccetera. Questo in un qualche modo gli va dato atto. Poi di per sé in effetti il fenomeno in un qualche modo è scemato, e ci sono sicuramente consulenti che continuano ancora a operare con il loro modo rigido di ragionare, quindi con la ricettina uguale in tutte le parti d'Italia, e altri che invece hanno conoscenze maggiori e minori di un determinato territorio e lì lavorano un po' più di fino. Comunque di quello che diceva Franco c'è una cosa interessante, molto intelligente, che ha detto: ogni tanto sembrava veramente di trovarsi come di fronte al calcio, la squadra non funzionava bene, cambiavano l'allenatore, no? Certo. Ma io e Franco, che teniamo per la stessa squadra, no? Ogni tanto, se lui lo saprà benissimo, non è tanto bisogna delle volte cambiare il presidente, no? Ovvero chi ha in mano l'azienda vera e propria, nel senso che è in fondo. Questo nel calcio non succede mai, però, eh? No, non succede evidentemente. Nel senso che poi le parole ultime e comunque il senso delle cose dovrebbe essere sempre in mano del produttore, insomma, di chi in un qualche modo ha in mano l'azienda. Ecco. Grazie a Fabio Giavedoni del suo intervento. Devo dire comunque che molte aziende che sono emerse negli ultimi anni, alcune di queste lo devono essenzialmente a qualche consulente enologo, e quindi secondo me Sì, c'è stata l'esagerazione, però bisogna fare anche qualche volta qualche piccolo distinguo, non dico tanto, ma ci sono le eccezioni che confermano le regole. Francesca dalla provincia di Oristano, buongiorno. Buongiorno, senta, io la sento sempre e questa mi sembra una trasmissione leggermente confusa. Sì. Allora, l'enologo, che per me è ignorantemente sembra critizzarte, quando dà dei giudizi sui vini eccetera, non è la stessa cosa del vinificatore, che in italiano, la cui traduzione in inglese è winemaker. Sbaglia, perché winemaker è molto, molto più largo, ed è vero l'accezione che ha dato prima il nostro cipresso è che è molto largo, cioè un consulente a 360 gradi, quindi anche nei paesi esteri, anche negli Stati Uniti, da dove è nato, e sicuramente questa figura, da dove sono nate queste figure, è un consulente a 360 gradi che parte dalla cantina, arriva sicuramente al marketing, quindi non è semplicemente il vinificatore. È qualcosa di molto più, probabilmente l'enologo è molto più ristretto, perché di solito l'enologo non fa marketing e magari non fa neppure comunicazione. Bene, grazie, buongiorno. Ci sono moltissimi sms, ce n'è uno diciamo abbastanza cattivo che dice: sono direttore commerciale di una grande azienda vinicola e trovo vergognosa tutta sta poesia sui winemaker che si vendono a chiunque per soldi. Beh, devo dire che di poesia ne è stata fatta ben poca fino ad oggi, caro direttore commerciale di una grande azienda vinicola, quindi mi sembra che sia completamente fuori luogo questo sms, ma poi ce ne sono molte altre che inneggiano ad alcune aziende che non hanno l'enologo. Beh, certo, ci sono dei produttori che sanno benissimo fare tutto per conto proprio, e allora addirittura c'è qualcuno che fa dell'ironia e dice: allora perché non wine evangelist? Quindi andiamo sul divertente e su altro. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di plus valore del vino. Devo rispondere a un intervento fatto sul sito Gastronauta che dice: tra tutti gli esperti non c'è neanche una donna. Ebbene, devo dire che Carcer, questa Magdalene che ha fatto questo intervento, che tempo fa ha fatto una trasmissione tutta al femminile sul vino, quindi sicuramente oggi è capitato così, ma sicuramente intervengono sempre le donne, e come. Bene, continuiamo questo giro. Ora abbiamo con noi un giornalista, anche lui di solito che non va poco per il sottile, ed è Carlo Cambi. Buongiorno Carlo. Ciao Davide, buongiorno a tutti i gastronauti. Ma allora senti, ma il consulente che si chiama ormai winemaker, che si chiama enologo o che si chiama wine evangelist, come è stato scritto, secondo te ha inciso sul mondo del vino in Italia? Purtroppo sì, e in molti casi negativamente, nel senso che ha omologato i vini, c'è stato un periodo in cui c'erano tutti di Merlot, perché che cosa fa il winemaker? Mette in rapido collegamento la domanda con l'offerta e non gliene frega nulla né dell'identità della cantina né dell'identità del territorio. Io ho sempre predicato che i vignaioli devono fare i vini che piacciono a loro e poi dopo cercarsi nella platea enorme dei clienti quelli che condividono queste scelte. Quindi secondo me il winemaker ha inciso in alcuni casi molto positivamente, perché ha fatto lievitare la qualità delle zone, ma in molti altri casi è servito a generare dei vini che erano delle scorciatoie e che hanno ballato una sola estate, senza poi considerare i rapporti non sempre trasparenti che ci sono tra winemaker e critici, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, rimani con noi. E allora un sms che mi dà 20 modi di chiamare l'enologo, wine promoter, wine sellers. Bene, oggi mi sembra che sia diventata una trasmissione molto linguistica. Ma passiamo a Domenico da Milano, un radioascoltatore. Buongiorno. No, brevemente volevo dire che una cosa, intanto ho ragione da tutte le persone che hanno parlato precedentemente sul plus valore che danno personaggi del genere, però volevo dire che sono anche tante volte le guide che danno, che, che tra virgolette fanno anche aumentare un po' i prezzi dei vini, perché spessissimo le aziende che spendono poco in comunicazione, che quindi tendono a non farsi notare, che non hanno questi collegamenti diretti con le guide, riescono a offrire prodotti di grande qualità a prezzi ragionevoli. Faccio un esempio velocissimo della Franciacorta. In Franciacorta generalmente un Sauternes sullo scaffale possiamo trovare tra i 18, i 20, i 22 euro. Se uno va in Franciacorta in qualche cantina trova dei Sauternes a 12 euro che valgono, che sono buoni esattamente come quelli che troviamo in enoteca. Sicuramente, come dico, cioè, il mondo è vario e quindi può succedere di tutto questo. Grazie comunque Domenico da Milano. Sentiamo Giordano da Treviso. Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi dica. Niente, io volevo dire la mia opinione al riguardo. Insomma, io penso che gli enologi che si specializzano in un determinato territorio rischierebbero di essere ancora più pericolosi degli enologi long runner, perché specialmente se uno è un po' più bravo, un po' più ammanicato degli altri, avrebbe secondo me un effetto di terraforming su tutto un vasto territorio e quindi poi si confonderebbe a lungo termine le caratteristiche primarie di un vitigno tipico di un territorio, di un uvaggio, con in realtà l'impronta che ha dato questo winemaker o questo enologo, e quindi poi si perderebbe proprio tutta una parte, secondo me, di una tradizione. Quindi a un certo punto di vista è quasi meglio che gli enologi girino per tutta l'Italia dando spunti in qua e in là della loro arte, del loro modo di pensare il vino. Bene, grazie Giordano, grazie per questa sua interpretazione. Allora torniamo a Cambi, a Carlo voglio chiedere questo: non ti sembra che sia finita questa era, diciamo, di questo plus valore aggiunto dato da nomi esterni all'azienda, quindi non più semplicemente dal marchio aziendale, che il marchio aziendale abbia ripreso il suo valore importante sul mercato? Assolutamente sì, se tu pensi che ormai il mercato del vino per le nostre cantine è il mondo e non più l'Italia, purtroppo, avere un brand aziendale molto forte che ha immagine, che ha un rapporto fiduciario col consumatore, che ha una qualità abbastanza costante nel tempo, è quello che ha fatto vincere alcune nostre cantine anche nei confronti di competitori internazionali agguerritissimi come gli Chateau francesi, per esempio. Sicuramente l'enologo di azienda è uno che dà uno stile di vino a quella produzione che è riconoscibile e quindi in qualche modo ritorna a fare quello che una volta gli enologi facevano, cioè di tentare di non distruggere quello che la vigna aveva dato. Il profilo aziendale oggi è decisivo sul mercato, forse ancora di più del profilo territoriale. Se tu pensi che questo paese ha un'enormità di DOC, alcune delle quali non si capisce perché l'abbiano fatte, e poi alla fine quando vai a vedere le performance economiche ti accorgi che quelli che vincono sul mercato sono quelli che hanno invece un fortissimo radicamento aziendale, magari spesso supportate anche da territori d'eccellenza. Ma fammi dire che l'enologo più importante non è quello che gira con l'elicottero, quello che interviene sul vino, è quello che è in strettissimo rapporto con l'agronomo. Ciò che oggi è fondamentale è che la coltivazione della vigna sia la più performante possibile. Bene. Quindi vorrei degli enologi che sono di supporto agli agronomi, questa secondo me è la nuova frontiera. Bene, e sentiamo, abbiamo con noi ora come radioascoltatore un noto produttore nonché presidente del consorzio della Franciacorta, Maurizio Zanella. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a tutti. Dimmi. Solo puntualizzare che io ritengo il winemaker o i consulenti hanno avuto un ruolo sicuramente fondamentale nel rinascimento enologico del vino italiano, ma il ruolo finisce lì. Sono le aziende, sono i marchi, sono i territori che portano avanti il blasone del vino. L'esempio è nei paesi che hanno una storia dove le aziende più importanti evidentemente nemmeno sappiano cosa sia un consulente, e se questo c'è opera nella sua maniera, con la sua professionalità, senza diventare la star, perché la focalizzazione è il marchio aziendale e il territorio. Quindi vorrei sgombrare il campo dal fatto che i winemaker in un paese che ha cambiato la pelle in 50 anni ha avuto un ruolo fondamentale nei primi anni, ma si deve ridimensionare alla sua professionalità. Sì, d'accordo, diciamo che anch'io ho posto questo interrogativo all'inizio avendo una precisa mia opinione, addirittura che ad oggi c'è questo valore? C'è sicuramente nel rapporto tra in cantina, nella produzione del vino, ma non emerge più, non è più un plus valore. Però non bisogna dimenticare un film, Mondo Vino, dove c'è un personaggio che mi sembra più volte Cipresso abbia accettato, Roland, il quale sicuramente girava il mondo con un aereo ed era, diciamo, consulente di moltissime aziende e di moltissime aziende vincenti in tutte le parti del mondo. Quindi questo non bisogna dimenticare, esiste ancora e non nascondiamocelo, ce ne sono ancora molte aziende che portano, diciamo, questo nome come un plus valore aggiunto. È finita un'era, forse ha detto giustamente Giuliani, della Prima Repubblica. Oggi il marchio aziendale e il territorio sono quelli che contano più, e viva Dio che succede questo. Però non si può cancellare completamente tutto il passato. Sei d'accordo, Carlo Cambi? Assolutamente, ma io voglio dire che forse abbiamo memoria corta. Cioè, nell'86 c'è stato Ciravegna. Se alcuni grandi come Giacomo Takis, come Fiore, come Bernabei non si fossero applicati a migliorare le tecniche di cantina e quindi a dare un profilo internazionale ai nostri vini, noi saremmo ancora a vendere le cisterne per il taglio in giro per il mondo. Questo è sicuramente vero. Ciò che è diventato distorsivo è quando poi l'enologo superava in capacità, certo, di comunicazione il valore dell'azienda, il valore del vino e il valore del vitigno. Questa distorsione è finita, fortunatamente. Oggi le aziende contano per la qualità che danno, per l'affidabilità che danno e per il territorio che interpretano. Allora a questo punto sorge un interrogativo: è finita perché? Perché erano dei bluff? Perché era un qualcosa, un plus valore che era, diciamo, effimero? Oppure le aziende sono migliorate e hanno capito che devono affidarsi solo a se stesse? Beh, è finito perché il mercato del vino si è spaccato a metà. Da una parte hai i vini commodities, quelli che si vendono a $3, $4 e che quindi sono una merce in qualche modo indistinta, e penso al grande consumo potenziale dei nuovi mercati. Dall'altra ci sono i vini che devono avere necessariamente una personalità, devono essere riconoscibili. Ma guardate che il paragone con la moda è quello fondamentale. Gli stilisti hanno fatto grandi marchi, ma oggi non vendi il disegno di Armani, vendi lo stile Armani e contemporaneamente vendi H&M, cioè vendi l'abbigliamento da poco prezzo, che è comunque fruibile, che è comunque comodo. Ecco, nel vino è esattamente successa la stessa cosa. Avevamo bisogno delle griffe, che sono stati gli enologi, per affermare dei brand forti, e adesso nel mondo funziona così. Ci sono le grandi cantine che hanno grandi non necessariamente per dimensione, grandi per capacità di interpretazione di uno stile di vino, che vanno forte in alcune nicchie di mercato, e poi c'è il vino da consumo, che è quello che sta fertilizzando i nuovi mercati, e su quella competizione noi dobbiamo cercare di essere vincenti, perché lì ci sono i grandi numeri. Bene, ti devo interrompere perché devo chiudere. Comunque abbiamo capito benissimo il tuo pensiero. Io voglio chiudere con una battuta in risposta a un SMS: ormai conta più il fumo dell'arrosto. Io direi invece che è proprio il contrario, ormai conta più l'arrosto del fumo, specialmente nel mondo del vino. Bene, io vi do appuntamento a domani con Riposo del Guerriero alle 11.15, ogni giorno con la pillola delle 11.05 replicata alle 23.05, e vi auguro un buon weekend. Fiorfiore Coop, metti a fuoco la bontà. Vi ha presentato Il Gastronauta.